20:17 inizia il Parapiglia. La voce che sentite è Giovanna Daffini che canta Festa d'aprile. Come vi abbiamo annunciato, questo Parapiglia è dedicato alla resistenza, alla liberazione, a tutte quelle compagne che hanno partecipato alla resistenza. A tutte quelle donne che hanno partecipato alla resistenza. Antifasciste sempre, ma non c'è neanche bisogno di dirlo, ma ci piace dirlo. Insomma, 25 aprile, il ruolo delle donne è stato tanto importante all'interno della resistenza, molte volte taciuto, ma per fortuna ci sono ancora tantissime combattenti che portano la loro testimonianza. Noi abbiamo sentito questa sera Lidia Menapace, che non poteva essere in diretta, quindi l'abbiamo registrata una mezz'ora fa, quindi è quasi come se fosse direttamente qui con noi. E poi siamo andate ieri al corteo, abbiamo intervistato le donne che erano lì in piazza e abbiamo chiesto loro a cosa si resiste oggi e perché fossero lì. E quindi cominciamo con ascoltare la prima di queste testimonianze, che è la testimonianza di Lidia Menapace, un nome insomma piuttosto noto, partigiana, staffetta partigiana, poi insomma ha fatto politica per tutta la vita. E intanto cominciamo appunto con sentire questa sua partecipazione al martedì autogestito da femministe e lesbiche, e quindi diamo la parola appunto a Lidia. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco. Partecipazione al martedì autogestito da femministe e lesbiche, e vorremmo insomma con te un po' ripercorrere la tua esperienza nella resistenza. Insomma, tu ne hai anche scritto molto, insomma ricordiamo almeno gli ultimi dei tuoi libri, Io partigiana, la mia resistenza, e Canta il merlo sul frumento, il romanzo della mia vita. E poi insomma sei anche ancora molto disponibile insomma andare in giro a parlare di questo. Come dico sempre di me stesso, sono un po' vagabonda, per la verità, nel senso che ti piace girare, sono sempre curiosa. Ma per la resistenza è stata una cosa maturata un po' in famiglia, un po' a scuola, devo dire. Mi c'è una specie di incubazione di questa partecipazione che un po' dipendeva dal fatto che la mia famiglia era di repubblicani, nel senso di mazziniani, quindi era molto culto della libertà, sul fascismo non stavano bene, ci hanno trasmesso un po' questa cosa. E anche a scuola, io ho studiato al liceo di Novara, che è la mia città natale, ho trovato parecchi professori che non erano d'accordo col regime. Naturalmente non è che potessero dire siamo antifascisti, perché li avrebbero puramente semplicemente sbattuti via dalla cattedra e messo in galera, ma attraverso allusioni. Quindi ho imparato questo linguaggio un po' semiclandestino, e anche ad avere un certo atteggiamento di spirito critico. Non è che, visto che Emanuele Kant, visto che Hegel, no, non ha questa origine. Semplicemente vedendo i fatti della vita, vedendo che le cose che venivano raccontate non erano quelle che ciascuno di noi sperimentava, si cominciava a dire ma perché succede questo? Ecco, quindi lo spirito critico si forma in questo modo. Io ci tengo sempre molto, raccontando la resistenza, a non darle un'immagine falsamente eroica. La storiografia resistenziale sta ancora cercando il suo modello, e per lo più dice che la resistenza è stata l'ultima guerra del risorgimento, non c'entra proprio niente, non c'è nessuna relazione tra le guerre del risorgimento e la resistenza è un fenomeno che avviene esattamente per questa tragedia che ha colpito l'Europa e il mondo con l'avvento del nazismo e del fascismo e poi con la guerra che ne è venuta di seguito. No, non si può trovare altra ragione. E la partecipazione fu molto individuale e però partecipata insieme, nel senso che non si poteva fare una partecipazione collettiva pubblica, ma ci si intendeva, dico sempre un episodio, a casa mia fare i compiti di classe, venivano le mie compagne di classe che poi ho scoperto appartenere anche loro a famiglie che non erano fasciste, mentre per esempio la figlia del federale fascista, che pure aveva compagni di scuola intelligente, brava, eccetera, a casa mia fare i compiti non veniva mai. Non ci frequentavamo, c'era nelle famiglie questa specie di attenzione a mantenere delle relazioni entro un ambito antifascista. Mio padre e mia madre lo esprimevano in maniera diversa secondo i loro temperamenti, ma comunque io questo ho sentito in casa mia. E devo dire che rispetto ai miei coetanei, che molte volte poi hanno invece scelto o sono lasciati scegliere dalla Repubblica Sociale, diciamo, dico anche, guardate che per le persone della mia generazione, della mia età, non si può proprio dire subito che fu una colpa, perché molti e molte non ebbero nessun modo di informarsi diversamente, e per un bel po' di anni Mussolini fu anche abbastanza popolare in Italia, e quindi mentre per le generazioni precedenti che si sono lasciate portare via la libertà si può anche essere più rigidi, per quelli che allora erano proprio ragazzi e ragazze molto dipende dalle circostanze. Ripeto, per me la famiglia e la scuola furono decisive, e tra le organizzazioni giovanili la FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, perché la Chiesa ebbe l'abilità di mantenere unica istituzione durante tutto il regime, il diritto di mantenere proprie associazioni. Tutte le altre furono negate, distrutte, i giornali, i partiti, le associazioni sportive persino potevano essere solo fasciste. Solo la Chiesa, con il concordato del 29, ottenne di poter mantenere le proprie associazioni che dovevano occuparsi di cose religiose, ma anche civili, e sotto questo termine di civili passava tutto, francamente. Allora, l'azione cattolica fu in gran parte molto allineata col fascismo nelle sue associazioni dei bambini, delle bambine e anche delle donne, così. Ma la FUC, la Federazione Universitaria Cattolica, e il Movimento Laureati invece ebbe molti, molti contenuti francamente antifascisti, addirittura letture proibite faceva passare, le stesse encicliche sociali della Chiesa che erano considerate un po' dei testi eversivi, ma addirittura delle cose di Marx, le prime letture di quel genere le ho fatte appunto con la FUCI, e quindi in qualche modo profittando di questo regime di semilibertà che la Chiesa era riuscita a ottenere, che aveva pagato salvando Mussolini, perché quando Mussolini si è concordato era un momento molto difficile del suo regime, insomma con reciproco vantaggio, la cosa fece sì che al momento della liberazione, diciamo, pronti ad affrontare la nuova situazione erano in parte i cattolici, specialmente quelli che provenivano da questa associazione, e se no il Partito Comunista, per essere fatto che aveva una situazione clandestina, però una struttura clandestina molto pericolosa e molto importante, sì. Potrei dire questo. Per me fu importante questa abitudine a quello che si chiama spirito critico, ma insomma questa abitudine a non credere a qualsiasi cosa venga detta, ecco, cercare di sottoporre a verifica. Già questo era, sotto il regime fascista, una cosa rivoluzionaria. Di conseguenza, quando poi, dopo l'8 settembre, le cose precipitarono, mio padre fu preso come internato militare italiano e non lo vedemmo per 2 anni. E noi eravamo sfollati, mia sorella e io scendevo dal paese, eravamo sfollati per andare a scuola, incontrammo dei ragazzi un borghese ma col fucile a tracolla, che ci mettevano a chiedere notizie sulle case armi occupate dai tedeschi e così via. Insomma, ci trovavamo quasi insensibilmente dentro il movimento, e io andai poi al CLN di Novara come Canto di Liberazione Nazionale dicendo che ero disponibile a fare la staffetta, e così ho fatto la staffetta per la Repubblica dell'Ossola. Ecco, ci tengo a parlare un momento della Repubblica dell'Ossola. Le repubbliche partigiane ce ne sono state alcune, ma questa fu particolarmente politica, perché visse come uno Stato, era diretta da una giunta di governo, e di questa giunta di governo faceva parte una donna, prima che le donne avessero diritto di voto, anche gli uomini non l'avevano durante il regime fascista. Però le donne non l'avevano mai avuto neanche prima. Donna comunista. E altra cosa molto rilevante, i due comandanti militari di questa piccola repubblica erano due fratelli, si chiamavano di Dio di cognome, erano di Arellino, sicché la Repubblica dell'Ossola in qualche modo rappresenta anche l'anticipazione di questa cosa democratica, che è la partecipazione del Mezzogiorno alla storia del paese, diciamo in primo piano, e finalmente il diritto delle donne di essere cittadine. Questo potrei dire. Certo, è un'esperienza che mi è rimasta in mente anche per le molte paure patite, anche per i rischi corsi, ma questo non è un aspetto eroico della resistenza, è semplicemente il fatto che la paura è un utile campanello d'allarme, e quando si vive in una situazione molto rischiosa è bene aver paura, non lasciare che diventi panico, cercare che diventi coraggio, tenendolo sotto controllo. Io più di così non ti saprei cosa dire. Ma penso, insomma, fare la staffetta partigiana dopo, insomma, dal 43 in poi era appunto un'esperienza di partecipazione e anche di libertà femminile. Io voglio dire, l'interesse per la politica era anche quello succhiato con latte a casa mia, perché appunto mio padre era mazziniano, la famiglia di mia madre era di anarchici e anarcosindacalisti, perché erano ferrovieri, quindi ho sempre sentito parlare di cose politiche a casa mia, curiosamente, anche a tavola, anche così, non si parlava quasi mai solo di cose individuali, sai, come si è sbucciato il ginocchio, il fratellino della tale ha fatto un'indigestione. I miei parlavano sempre delle cose di tutto il mondo, perché avevano questa educazione politica, e quasi senza volerlo, e hanno trasmesso questa curiosità. Per cui io poi mi sono occupato di politica, prima nelle correnti della sinistra della DC, poi dopo nel Manifesto, il giornale del quale sono stato insieme ad altri fondatrice, e poi sempre un po' ai margini, sempre in posizione un po' poco ortodossa, incontrando via via il pacifismo, il femminismo. Ci tengo, anche la non violenza, ci tengo a dire sulla non violenza, però, che preferisco chiamarla azione non violenta, e non la considero avere il gusto del verbo in faccia, perché considero sbagliata l'interpretazione del famoso episodio evangelico del porgi l'altra guancia. Semplicemente quell'episodio significa fare una cosa imprevista, perché se uno non sbella si aspetta che tu hai due, dopo si può appunto fare a coltello, si va all'atomica sicuramente, cioè la violenza è di per sé ripetitiva, monotona, e solo cresce quantitativamente. Se invece tu interrompi questa cosa perché fai un gesto imprevisto, ti voleva attaccare, si distrae, ti fai lo sgambetto e scappi, introduci un elemento di creatività, potremmo dire, cioè di non prevedibilità, e lì è l'azione non violenta, per l'appunto, che in ogni modo è un'azione che interrompe la monotonia della violenza. Lo dico sempre perché sono convinta che oggi sta anche rinascendo, data la situazione così brutta e meschina in cui viviamo, sta rinascendo anche l'idea che forse si comincia a fare qualche botto, rompere un po' di vetrine, fare un po', ci si fa sentire. Invece è molto sbagliato, bisogna trovare la maniera di cambiare la mentalità. Sono pressoché convinta che quasi l'unica forma di preparazione alla rivoluzione, di anticipo rivoluzionario, di fase pre-rivoluzionaria, è quella di provare a fare una rivoluzione culturale. Anche qui non saprei dirti di più. Ti faccio un'ultima domanda per non abusare, insomma, della tua disponibilità. e anche questo insomma un tema di cui si discute ancora molto rispetto alla resistenza, è quello della partecipazione popolare, insomma la resistenza come nucleo insomma di pochi combattenti o come invece sì, una la resistenza, se non fosse stata una partecipazione popolare ampia non avremmo mai potuto vincere. Dal punto di vista strettamente militare non c'era partita tra noi e la Wehrmacht assolutamente, ma se invece tutto il popolo ci aiutava, ma nel senso che ci nascondeva, ci avvisava, e forse anche taceva semplicemente, non ci denunciava alle autorità, non avremmo mai potuto vincere. E questa diciamo, partecipazione in varia forma, anche poco appariscente, è molto importante nella storia italiana, perché interrompe una specie di egemonia guicciardiniana, dico sempre io. Voglio dire, quando si formarono le grandi monarchie assolute, con questo gli stati nazionali europei, l'Italia rimase indietro per la prima volta nell'evoluzione politica, se ne occupò si chiese perché Machiavelli, e si rese conto che gli altri stati avevano qualcuno che riusciva a unificarli, invece in Italia qualunque tentativo scendesse dal nord o salisse dal sud incocciava nello stato della spiera e bloccava tutto. Machiavelli allora pensò che bisognasse trovare un capo a cui il Papa non potesse dire di no. Abbiamo individuato Cesare, il figlio del Papa Borgia, Cesare, detto il duca di Valentino, ecco, detto il Valentino, purtroppo Valentino morì. E quindi Machiavelli rimase l'inventore della scienza e della politica, però fu un profeta inascoltato al suo tempo. Contemporaneamente a lui invece Guicciardini, che obiettava giustamente, io ho anche i miei diritti personali perché dovrei metterli da parte, Guicciardini ebbe invece uno straordinario successo. E tutta la formazione politica e civile italiana è fondata prevalentemente un guicciardinismo un po' d'accatto che è diventato un proverbio, o Francia o Spagna purché se magna, cioè gli italiani stanno sempre dalla parte di chi vince. Vince la Francia, viva la Francia, dammi un piatto di minestra. Vince la Spagna, viva la Spagna, dammi un posto di lavoro. L'unico grande evento che non è guicciardiniano, se vuoi, è la resistenza, perché se ciascuno di noi avesse pensato al loro proprio particolare, sicurissimamente il movimento sarebbe stato letteralmente massacrato e distrutto. E una storica dell'Università di Torino, Anna Bravo, dice che fu un grande momento di maternage, perché questo ricordo dell'esercito italiano fu fatto soprattutto dalle donne. Ora, va bene, il cuore di mamma è sempre una cosa importante, ma bisogna sapere che quando le donne italiane ricevettero in casa propria tutti i ragazzi che scappavano dalle caserme, si tiravano in casa uno che presumibilmente aveva fame e buon appetito perché era giovane, e si aveva la tessera del pane, la tessera con quale si rischiava di crepare. Se poi quando tu avevi in casa qualcuno che era sotto la leva, li trovavano, uno fucilavano, ma a casa tua la bruciavano. Quindi fu una volta in cui proprio se stessi, le proprie cose furono messe a rischio, l'unico momento per davvero di massa non guicciardiniano della nostra storia, come dire che c'è stato, quindi potrebbe anche ripetersi all'occorrenza. Noi ti ringraziamo molto, insomma sappiamo che sei in giro per l'Italia per insomma impegni legati all'anniversario. Perché sono vagabonda, appunto. Perché sei vagabonda. Mi spiace di aver dovuto intervenire in questa forma così calcolata, ma non era possibile diversamente. Noi ti ringraziamo molto, buona liberazione, insomma la giornata era ieri, ma la liberazione è un percorso importante. Altrettanto, grazie. Ciao. guerra siamo noi. Fra i tamburi della guerra, sotto il classico fanale, questa l'avete riconosciuta sicuramente, era Giuni Russo, insomma la canzone si intitola Donne Partigiane, e appunto ieri 25 aprile siamo state al corteo del 25 aprile, il corteo della liberazione, che come insomma tanti e tante di voi sanno perché c'erano, è partito dal Colosseo, è arrivato a Porta San Paolo dove insomma ci sono stati degli interventi dal palco insomma di partigiane, partigiani, la madre di Renato Biagetti e poi insomma anche altri interventi. Poi il corteo è proseguito, è andato ad Ararat, anzi prima a Ponte di Ferro, insomma, dove è stato ricordato l'eccidio delle donne che per il pane avevano assaltato i forni e lì insomma furono uccise, insomma anche questo come compagne ogni anno ricordiamo questa partecipazione di massa delle donne alla resistenza, con forme che non sono state tutte quelle delle combattenti o della staffetta come l'esperienza di Lidia che ci ha raccontato poc'anzi, ma insomma appunto anche le rivolte di forme, la partecipazione agli scioperi e tante altre modalità. Infatti come dicevano ieri dal palco anche i partigiani e le partigiane, quello che raccontavano è che la resistenza non è stata fatta solo dai combattenti e dalle combattenti con le armi in mano, ma anche e soprattutto dalle persone che li ospitavano, che li nascondevano, che gli mandavano i messaggi e che riuscivano a farli organizzare senza pericolo, correndone loro di molto grandi. Il 25 aprile il corteo di ieri è stato un corteo in cui insomma si è ricordato che l'antifascismo non è una ricorrenza, non è una celebrazione, l'antifascismo è una pratica di ogni giorno, e è stato un corteo a fianco di popoli resistenti, una grande spezzone in solidarietà con il popolo palestinese e altrettanto con il popolo curdo. Infatti il corteo appunto finiva ad Ararat, e quindi cominciamo insomma a ascoltare alcune di queste testimonianze. La prima che vi facciamo sentire è una testimonianza che abbiamo raccolto dal carro del corteo, e appunto una compagna curda. Del corteo di 25 aprile, auguriamo tutti i compagni e le compagne di italiani che adesso hanno dato questa possibilità che anche facciamo corteo con loro, e grazie a partigiani italiani che hanno regalato questa giornata bellissima di liberazione. 25 aprile, questa è giornata di festa, liberazione di Repubblica. Come donne curde, come donna curda, anche noi festeggiamo con italiani, c'è corteo tutti i colori, tutti bandiere di Kurdistan, anche siamo con voi, perché anche noi, le curdi anche hanno bisogno di resistenza, fanno sempre resistenza e hanno bisogno di libertà, come liberazione di Italia 25 aprile. Lo spero che un giorno le Kurdistan anche festeggia di come 25 aprile liberazione del tutti quattro parte di Kurdistan. Lo spero che tutti i paesi che c'erano guerra e stanno combattendo contro il fascismo, un giorno liberazione anche loro augurano liberazione. E io da qui lo grazio tutti i compagni e le compagne degli italiani, soprattutto tutti i partigiani che hanno lottato per questa giornata di liberazione, hanno vinto un giorno curdi, anche lì vincono e vinceranno e fanno augurazione di resistenza. E tutti i compagni e le compagne sono invitati al centro culturale Ararat il pranzo, oggi i curdi la fanno pranzo. Vigi, sera, apo! Libertà per Öcalan, Paceyin, Kurdistan! Libertà per Öcalan, Paceyin, Kurdistan! Grazie tanto, ora per sempre la resistenza! Viva la resistenza! Una manifestazione dove c'erano tante persone, tanti sì. Spezzoni, un corteo insomma anche molto variegato, ma anche tanti compagni e compagne che insomma sono scese in piazza per questa giornata della liberazione. Abbiamo cercato insomma di raccogliere dal nazifascismo, non l'abbiamo ancora detto, dal nazifascismo non l'abbiamo detto, era diciamolo, così per diciamolo. Puntualizzare e abbiamo raccolto alcune voci, ve ne facciamo sentire qualcuna. La domanda, qualcuna la conoscete, qualcuna invece no, ovviamente persone che abbiamo incontrato, donne che erano lì in piazza, anche insomma di età abbastanza grande, che hanno fatto degli interventi magari a volte brevi però intensi e molto calorosi, emozionanti. Noi provavamo a chiedere a cosa si resiste oggi, a volte la conversazione ha tenuto questo filo, a volte no, ma cominciamo a sentirne una di queste testimonianze. Contagio a che si resiste oggi, perché il corteo. No. E dai. No, non so parlare, sono. Se non sai tagliare il taglio. Puoi parlare lei che si trova. Beh, tante cose, diciamo, alle nuove forme di esclusione, di cittadinanza da parte di altre. Che particolarmente lo sai, che perché ti sei alzata stamani, è festa, piove, sei arrivata qua? Beh, perché comunque è un giorno importante, continuiamo a fare la stessa cosa che è stata fatta a noi e quindi in qualche modo di investire questo processo. Parli della Palestina, del Kurdistan, di questi popoli? Anche sì, ma anche diciamo quello che viene fatto in casa nostra. In questo momento stanno innalzando una barriera al Brennero, quindi insomma. Grazie. Ci tengo a dire che poi c'è stato un bel sole, è stata proprio una bella mattinata, sì. E quindi sentiamo la seconda testimonianza. Il martedì femminista era di Onda Rossa, dai. A che si resiste? No, oddio, mi togli. A che si resiste oggi o il 29? Oggi è il 29? Allora, oggi siamo in piazza per ricordare la liberazione dal nazifascismo. 71 anni fa come oggi, oggi pure bisogna liberarsi dai fascisti, dagli compagne! Il 29 era una data, insomma, prossima avventura, che ricordava la compagna, un'assemblea dei movimenti per il diritto all'abitare, quindi insomma stavamo parlando di quello con lei e giustamente ha avuto... Sì, l'ha citato. Comunque insomma da questi interventi esce fuori Il fatto che questo 25 aprile è ancora tanto sentito, perché di fascismo, poi, come ci racconterà anche dopo la mamma di Renato o altri partigiani, altri interventi di compagne, di fascismo ancora si muore. Ed è importante, io dico la verità, mi emoziono sempre ad andare in questa giornata a sentire le parole dei combattenti e delle combattenti che hanno fatto la libertà e che ora però si ritrovano tristemente a dover difendere una Costituzione in cui hanno creduto, che magari neanche gli piaceva e che non ci piace neanche a noi, ma che forse per loro è un po' l'ultimo baluardo di una battaglia che hanno fatto. Quindi insomma non la critico nemmeno come posizione, mi rendo conto che fondamentalmente per loro è importante in questo momento, perché dopo se ne parlerà. Libertà, l'idea che ci avvicina, rosso sangue, il color della bandiera, d'Italia siamo l'armata forte e fiera. L'ultima cosa che dobbiamo ricordarci di dire, che insomma ce l'abbiamo nel cuore, che forse brucia più delle altre, è che questo 25 aprile sta appunto sotto la sigla Io non dimentico, perché nel decennale dell'omicidio di Renato, l'omicidio insomma che come sapete è avvenuto per mano fascista, e al corteo c'erano le madri antifasciste, c'era la madre di Renato che ha voluto parlare con noi, insomma un momento forte, insomma come sempre quando si parla di questo, ve la facciamo ascoltare. 10 anni di memoria di Renato, oggi è il 25 aprile. Oggi è il 25 aprile, assume un significato particolare proprio perché riportiamo sulle piazze che il fascismo non è mai morto, ha solo cambiato, diciamo, abito, ma ampiamente sdoganato, pacificato. Oggi, oltre a Renato, io personalmente voglio ricordare tutti i morti di fascismo dopo il 45, dopo la liberazione, quindi i nuovi partigiani, per ricordare sempre che di fascismo si muore. Scusa, fammi passare, perché c'è un'emozione molto grande. Io venivo a questa festa quando ero ragazza, quando ero piccola, portata da mio padre, quindi una memoria raccontata, e non mi sarei mai aspettata di dovermi ritrovare catapultata in una situazione grande. Io ero una donna di tutti i giorni, chiaramente con le mie idee, io ho fatto il 70 all'università, la Sapienza, quindi ho visto tutti i movimenti di allora che c'erano. Ma poi ho cominciato a lavorare dal 71 al 73, avevo già il primo figlio, e mi sono ritrovata catapultata 10 anni fa a prendere in mano una situazione che è la più brutta che possa vivere una donna, la morte di un figlio, ma non solo la morte di un figlio, la morte di un figlio squarciato, la morte di un figlio distrutto. Come disse in una poesia Felice Impastato, questo non è mio figlio, questa non è la carne di mio figlio, per come l'avevano ridotto. E ti ritrovi a riprendere tutto quanto e dire no, non è possibile, va bene, l'avete ucciso, l'avete ammazzato, ma io sarò sempre la tua voce, andrò avanti, così è stato fatto, così con l'aiuto di donne meravigliose, di compagne meravigliose, non solo di Roma, perché ormai il nostro comitato si è espanso in tutta l'Italia, abbiamo donne da tutte le parti, come Heidi Giuliani, Rosa Pirro, compagne di Ferrara, altre compagne di Milano che fanno parte del nostro comitato, e noi, è una cosa, una promessa che io ho fatto a Renato, fino alla fine dei miei giorni, fino all'ultimo respiro, se ce la farò, io camminerò sempre, riportando la verità, la tua voce, i tuoi sogni e quelli che erano i tuoi ideali. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di superlaride montagne. Eh sì, dai, continuiamo con le interviste. La prossima dura pochissimo, dura 20 secondi, però cerco un po' di descrivervi la donna che abbiamo intervistato. L'abbiamo vista dentro al corteo, un'età indefinita tra, non so, gli 80 e 90 anni, probabilmente a braccetto del figlio, con un foulard grandissimo che la avvolgeva tutta, perché lei era minuta, la avvolgeva tutta, era rosso con tutte falce e martello gialle, e quindi siamo andate là a chiederle il suo 25 aprile e questo è quello che ci ha risposto. Ci racconta perché è qui oggi? Perché ho cominciato nel 64 con la leva Togliatti e non mi sono più fermata. Fino alla fine non mi arrendo. Grazie. Dalle belle città date al nemico, fuggimo di superlari del montagno. E così ieri mattina siamo arrivati a Porta San Paolo, dove i discorsi sul palco sono stati aperti da una partigiana, dalla compagna Tina, e vi facciamo sentire il suo intervento dal palco del 25 aprile di Roma. E grazie di essere qui in tanti, perché per mantenere quei diritti che i nostri caduti hanno avuto in montagna, in guerra e nelle città, dobbiamo essere uniti tutti assieme come in questo momento. Forse qualcuno pensava che oggi questa manifestazione fallisse, mentre invece noi abbiamo data la dimostrazione che questa è la nostra giornata. La liberazione di Roma, avvenuta il 4 giugno del 44, è partita da questa piazza. E da questa piazza tutti assieme dobbiamo partire per rinnovare questo paese, perché le ingiustizie ancora ci sono tutte, le guerre nel mondo ci sono, la libertà è mistificata, la giustizia è fiacca. Scusate che io dico le parole come mi vengono, perché vedete che parlo a braccio. È quello che mi sgorga dal cuore e dal cervello. E allora, tutti assieme abbiamo delle date che non dobbiamo dimenticare. Come dicevo, il 4 giugno ricorre l'anniversario della liberazione di Roma, e qui alle nostre spalle c'è il Parco della Resistenza, che bisogna andare a vedere che razza di mondezzaio mantiene il comune di Roma. Io penso che quest'anno dobbiamo fare la festa del 4 giugno proprio su quel palco, e per far sì che il comune di Roma si ricordi che se possono essere lì in quella sede quelli che faranno il sindaco e faranno gli assessori, i consiglieri, lo debbono a quelle donne che su quel palco sono ricordate. Ecco, io non vi voglio tediare, però voglio dire che la democrazia, la libertà, la nostra Costituzione, che la vogliono cambiare, è la miglior Costituzione del mondo. Può essere che i tempi sono passati e che debba essere pure ritoccata, ma scusate, il primo articolo recita che che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Abbiamo un paese che cade, basta guardare Roma, è tutta una buca. All'articolo 13 c'è scritto che l'Italia abolisce la guerra. Io lo dico sempre quando vado nelle scuole. Noi siamo un popolo in guerra e se non stiamo attenti le bombe ricadono anche qua da noi. Ma scusate, il governo italiano compra gli F-35, aerei di guerra che vanno a ammazzare gente che a noi non ha fatto niente. Ma basta, il costo di un aereo F-35 per mettere a norma tutte le scuole di Roma e ci contrabbandano che se non fanno gli aerei i lavoratori non avranno lavoro. Ma se mettono a norma tutte le scuole di Roma, ma quanti lavoratori che non hanno lavoro vanno a lavorare? Perché dobbiamo continuare ad ammazzare gente che a noi non ha fatto niente? Perché qui se andiamo avanti di sto passo, noi dovremmo celebrare la terza guerra mondiale. Non è possibile, non è possibile. Ma siamo poveri. Ce la vogliono cambiare questa Costituzione. E a ottobre ci sarà il referendum se la vogliamo cambiata. Io dico che noi la vogliamo applicata, non cambiata. Ecco, io mi fermo qui perché di cose da dire ne avrei tante, ma comunque non mi arrendo perché tutti i giorni incontro ragazzi delle scuole elementari e medie e vi dico che sta crescendo una leva di cittadini che forse domani ci aiuteranno, a noi che siamo rimasti, a fare di questo paese un paese libero e un paese solidale. E capite bene che cosa voglio dire: solidale, la solidarietà, perché ognuno di noi ha il diritto di professare la religione che crede, ma alla libertà non può rinunciare nessuno. Grazie. Mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, i risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, curve a lavorare. La la la la la, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma. vi abbiamo detto appunto un 25 aprile, quello di ieri a Roma, a fianco dei popoli che resistono, a fianco del popolo curdo, a fianco del popolo palestinese, una partecipazione insomma anche internazionale e internazionalista. Vi facciamo sentire tre testimonianze, una in fila all'altra. Onda rossa. Volevo chiedervi a cosa si resiste oggi. Noi siamo ragazze russe dell'Ucraina e del Donbass. Ah, ok. E quindi noi siamo qua per festeggiare con voi la liberazione e la resistenza, perché i nostri combattenti stanno facendo la stessa cosa. Noi nel Donbass combattiamo il fascismo ucraino, dello Stato ucraino. Sì. E ci puoi dire com'è la... ci sono donne che partecipano alla resistenza? Ci sono le donne che partecipano alla resistenza perché stanno insieme agli uomini, difendono la propria terra allo stesso livello, pari agli uomini. Le donne, in senso che hanno 15, 16, 20 anni, sono veramente giovani e hanno questa forza di combattere per la terra sua, la sua patria. Buona lotta. Grazie. Ciao, ce lo dite qualcosa per Radio Onda Rossa? Perché con questo striscione? Perché a cosa si resiste oggi? Beh, oggi siamo non solo per ringraziare i nostri resistenti antifascisti che hanno liberato l'Italia dal fascismo e dal nazismo, e siamo riconoscenti e ci riconosciamo ancora nei valori della resistenza, ma siamo anche presenti nelle resistenze di oggi e noi siamo in questa parte del corteo, siamo vicini con la resistenza del popolo palestinese che resiste a un'occupazione militare che è la più lunga che gli si ricordi, perché saranno 60 anni, è un'occupazione militare, un'occupazione territoriale, un'occupazione che è il furto della terra, della vita, e il popolo palestinese sta resistendo e sta lottando in solitudine, perché è una lotta molto isolata, però è una lotta giusta e noi siamo a fianco della loro lotta. Che dice lo striscione? Beh, lo striscione della rete romana per la solidarietà con il popolo palestinese. Siamo dietro uno striscione anti-imperialista e anti-sionista, però siamo anche qui per il 25 aprile, cioè una data che non vogliamo dimenticare, è una lotta che non vogliamo dimenticare, non vogliamo occultarla e prendere possesso della manifestazione solo con la resistenza attuale. Vogliamo anche ricordare e celebrare la resistenza che c'è stata nel 45. Grazie. Oggi si resiste, purtroppo, parla Carla, per me si resiste ai nuovi fascismi che si chiamano, che possono chiamarsi sionismi, renzismi, i vari ismi. Cioè, anche la situazione che viviamo in Italia va sempre più degenerando, quindi la resistenza non è mai finita, non deve mai finire, perché questi ci stanno portando veramente allo sprofondo. Quindi noi, come donne in nero, cerchiamo di resistere con la nostra utopia, forse, di fuori la guerra, di cacciare la guerra dalla storia, e quindi la resistenza per noi è un atto quotidiano, perché crediamo in questa utopia, perché l'utopia, certo, non è qualcosa che non si realizzerà mai, è qualcosa che non si è realizzato nel passato, però noi continuiamo a credere. credere, è la nostra utopia fuori la guerra dalla storia. Negli ultimi anni c'è stata una specie di normalizzazione della guerra, mi pare, cioè nel senso che è diventata, che... ormai è un option, cioè la guerra è un'abitudine, non è la guerra, ormai sono le guerre, c'è un plurale, le guerre prendono tutti, chiunque, naturalmente sono i paesi che hanno qualcosa da dare. Paese povero non va in guerra, Chad non c'è guerra, non c'hanno niente, Centroafrica no, non c'hanno niente, anzi no, Centroafrica adesso hanno scoperto i diamanti, questo è vero, ormai le guerre sono, cioè prima si faceva la guerra con delle idee precise, adesso si fa la guerra solo per appropriarsi di qualcosa o per inglobare quella quello stato nel tuo stato, cioè la guerra ormai è diventata sempre umanitaria naturalmente. Io vengo dall'Iraq, ti assicuro, la guerra non è mai umanitaria, mai. Le donne hanno un ruolo particolare contro la guerra, per la resistenza? Rispondi tu, così parliamo tutte. Ma a nostro avviso il più grande messaggio, al di là alla fine della seconda guerra mondiale, doveva essere quello di chiudere con le guerre per risolvere i contrasti e i conflitti. Invece purtroppo assistiamo a un ripetersi di questo strumento che si abbatte sulle popolazioni, e sono i popoli che pagano queste scelte disumane. Noi siamo proprio contro la guerra proprio per questo, c'è un prezzo che le popolazioni pagano senza fine, quindi dovrebbe essere il punto di partenza di qualsiasi politica. Noi donne su questo ci siamo e siamo convinte che bisogna lottare contro le guerre. Quindi concludiamo così questa puntata dedicata al 25 aprile. Direi che il nostro saluto lo facciamo dare a Viola Mancini. Sì, Viola Mancini, una partigiana di 92 anni che ieri è salita sul palco e ha salutato tutti i combattenti e le combattenti antifascisti e antifasciste che erano lì in piazza. Essere qui fra voi da 72 anni che io torno qui dopo essere stata liberata dagli americani a via Tasso il 4 giugno. Grazie. E questo spazio lo chiudiamo con Bella Ciao, cantata dalle donne di Kobane. Per un 25 aprile a fianco del popolo curdo, del popolo palestinese, antifasciste sempre. Ve de jinden hoş ve, yan hoş ve ey rulo.